Che bello, allora no, sarebbe buongiorno. Allora abbiamo cominciato l'altra volta. Abbiamo cominciato un'altra volta a leggere le obbligazioni sacramentali. Questo inizio ci richiederà un po' di tempo, molta attenzione, perché dà un po' il tono dell'opera complessivamente, dobbiamo vederlo molto particolarizzatamente. Vi ricordate queste dimensioni di spazio e tempo? È una mattina quindi di autunno, l'autunno non a caso perché è l'inizio di un anno accademico ed è la fine delle scuole, quindi lui, Frédéric Moreau, questo ragazzo di 18 anni che ha fatto la maturità e fa il laureato, dopo aver fatto una deviazione da Parigi di cui non ha conosciuto praticamente nulla, di cui non sa nulla, a Le Havre per motivi familiari, di eredità, cioè la madre spera per lui un'eredità, sono i piccoli tocchi con cui noi capiamo subito che siamo all'interno di un ambiente molto normale, molto comune, molto borghese, in cui si aspettano naturalmente i soldi tantamente possibile. Dopo tutto questo, adesso deve tornare a casa. Torna a casa, lo Jean Sursen è un ragazzo di provincia. Questo deve essere molto chiaro, insomma, la provincia è una dimensione dello spirito, diceva Laforgue, che ha dedicato alla provincia molte delle sue cose, è una dimensione dello spirito. E chi di voi viene dalla provincia sa la differenza dalla città. Voglio sapere, chi è che viene dalla provincia di voi? Bene, per esempio lei da dove viene? Il paesino, provincia. Ecco. E infatti naturalmente tutti i giovani dal mondo e mondo che vengono dalla provincia alla città hanno questa sensazione di smarrimento ma al tempo stesso di euforia perché sembra la città promettere cose grandi, meravigliose, insomma. Un po' come quando voi scegliete a un certo momento di andare all'Erasmus, che io ho sempre sostenuto che la vera ragione per cui scegliete di fare l'Erasmus è per cercare di rimediare sessualmente per imparare la lingua. Sono sempre fatto alte veste di chi dice che va per imparare la lingua, eccetera. È giusto, sacrosanto desiderio, come diciamo noi a Roma. No. E il provinciale spera il paradiso, va alla provincia. E quindi Parigi, notate una cosa, che in Italia è molto diverso, che in Italia ci sono molte città. C'è la provincia, c'è la città, ma ci sono molte città, ve l'ho già accennato. In Francia c'è una sola città realmente importante, una capitale che è Parigi, poi ci sono alcune grandi città che sono Bordeaux, Lione, ma tutto sommato non sono paragonabili, che so, a Torino, Milano rispetto a Roma. Parigi è il massimo. Non solo Parigi è il massimo, direi, in assoluto, per un francese, ma dovete pensare che nell'epoca in cui parliamo, cioè nel XIX secolo, Parigi è sempre più, in modo crescente, ha avuto un'importanza enorme. Era il luogo dei sogni, della fantasia. Dove porti una fidanzata, una sposa in viaggio di nozze, ma ancora oggi, insomma, la porti a Parigi, no? Ecco, sono stato recentemente a Parigi con una carissima mia amica e sentivo che lei diceva per tutti, vada a Parigi. Se io avessi detto allo stesso modo andiamo a Londra avrebbe avuto ancorché lei sia un artista avrebbe avuto una reazione tutta differente perché Parigi è Parigi insomma, no? E questo ragazzo sale su questo mantello, la Ville de Montereau, e c'è la descrizione mirabile di questo, di quello che avviene, di quello che avviene. Cosa avviene? È innanzitutto come se una macchina da presa, questo è il paragone che vi facevo, fosse spostata e facessi vedere quello che c'è sulla destra e quello che c'è sulla sinistra. Una delle cose, dicevamo l'ultima volta, che sono più, che è più interessante è questa, in questa sostanziale opacità e anche melanconia, lo spettacolo della borghesia, della piccola borghesia che sta da una parte o dall'altra, non solo, ma del mondo del lavoro, perché cosa troviamo? Troviamo, vi ricordate, dei giardini, innanzitutto, i giardini sono un po' il culto, il desiderio profondo di qualunque borghese. Che cosa vuole un borghese? Un borghese vuole la casa col giardino, no? L'altra volta mi pare che avevamo chiuso trionfalmente parlando di Santa Marinella, ecco. Santa Marinella o peggio, insomma, o la Dispoli, insomma, o andando giù fino ad Anzio, eccetera, ormai anche Sabaudia, c'è la costa che voi ben conoscete, ecco, è lì ci deve essere il giardino. Una casa senza giardino è come una gallina senza uovo, non lo so, una casa deve avere il giardino, già anche una lettuccina di giardino, ma ci deve essere. Qui però non si può fare così. Ma qui però è già cominciata l'azione, e non si può, scusi. Dunque, e allora e ognuno che cosa fa vedendo queste casette? Vorrebbe averle. Sentite come tutto è semplice, come tutto è vero, ma anche noi, se ci troviamo a vedere, che so, a fare il giro del lago di Bracciano, stare qui vicino, e in queste casette uno pensa, ma che bello sarebbe avere una casetta qui sul lago. Che cos'è che desidera un uomo comune? Che cos'è che desidera un uomo? Camminare tutto quanto. Come dice? Camminare tutto quanto. Non ho capito bene. Camminare tutto il giorno. Sì, ma adesso la domanda era retorica, no? Perché se lei rispondono tutti, diventa una cosa, quindi rimanga in un, come dire, in un silenzio pieno di ascolto. Che cosa sogna? Sogna di avere la casa, il buon biliardo. Il bombe cosa fa un pensionato? Il pensionato gioca a bocce, gioca a biliardo, no? Di avere esattamente un bon billard, une chaloupe, una barca, una donna, ecco. Cioè certo, se uno ha la barca, pensate, c'ha il biliardo, ma è solo, diventa malinconico. Ma la donna quindi viene sentita come una sorta di soprammobile, in qualche misura, no? Serve a. Serve a una sorta di arredamento dell'anima. No, signore, non si può entrare. Ma lei ha avuto un problema molto importante. Va bene, d'accordo. Allora, però adesso cerchiamo di non interrompere, per favore, fate rapidamente. Dunque, e quando si è sulla barca, voi l'avete visto probabilmente andando nei traghetti qui intorno a Roma, se siete andati per esempio a Ponza. Chi è andato a Ponza mai di voi? Ci sarà a Capri, a Ponza, da qualche parte, eccetera, no? Appena si comincia ad andare c'è una sorta anche in minimi giretti di effervescenza dello spirito, per cui si comincia ad attaccare bottone, a chiacchierare con quello, con quell'altro, no? Ecco, e guardate come è descritto. Come descritto? Chiacchierano tutti, uno da una parte, uno dall'altra, si versavano dei bicchierini, tra l'altro di prima mattina, fa un po' un effetto, ma quando si sta bene insieme, capisci, quando magari si è giovani, io mi ricordo delle bevute di alcol alle 4:30, 5 del mattino, insomma, cosa farci spaccare lo stomaco, ma insomma, E Frederick che cosa pensa? Attenzione bene, Frederick pensa a tre cose. E l'arte, quando vedete questo capoverso di cui attacchiamo, Frederick pensé à la chambre qui occuperait là-bas, cioè a casa sua, pensava al plan cioè allo schema di un dramma, a dei soggetti di quadri e a passioni future. A un dramma, un lavoro di scrittura, a dei quadri e a passioni future. E vedete che li mette tutti e tre assieme. L'abilità di Flaubert nel mettere assieme queste tre cose, che effettivamente di per sé l'una non c'entra con l'altra, cioè, o uno è un pittore, si potrebbe dire, o è uno scrittore, e poi le passioni future, ma in realtà tutto conta allo stesso modo per lui. Lui non sa ancora se è un pittore, può darsi che diventerà un pittore eccezionale, e può anche darsi che diventerà uno scrittore, perché a 18 anni, e qui è il nodo della questione, non si sa ancora quello che si vuole dalla vita, no? Anche dal punto di vista dei sentimenti. Ma chi a 18 anni, anche allora, ma adesso figuriamoci, c'è qualcuno di voi, per curiosità atroce, che mi sta vedendo, che ha 18 anni? Volevo sapere, nessuno? 19! Ah, Eva! Si può alzare, scusi, in piedi, perché io ho diletto per me. Lei ha 19 anni, madonnina buona! Comunque, se a questa età vi dicessero, per esempio, le dicessero, senta signorina, le dicessero di sposarsi, domani, lei cosa ne pensa? Magari c'è il ragazzo, lei non vorrebbe sposare domani? No. Perché dice, insomma, santo il Dio, lascia un po' respirare, insomma, sostanzialmente, no? Ecco, cioè, 19 anni, 18 anni, uno non vuole ancora sistemarsi, però io sono convinto che ognuno di voi, forse mi compreso, rogatus sententia, come si dice, è una latina molto fine, potete dire, vendere, cioè interrogato sul mio parere, rogatus sententia, non so quanti professore sa, sul fatto se io vorrei avere delle passioni future, beh, tutti saremmo, no? Lei mi guarda con quest'aria attonita, forse perché lei è completamente al di fuori di questo, una sorta di asetticità del cuore, no? No, una passione futura le piacerebbe? Sì, però lo dice con una forma di freddezza incredibile, sai, perché lei non aveva mai frequentato le zone del sentimento. Una passione futura per Dio, che la trascinasse, fuori dai corpi della sua mediocrità normale, mi piacerebbe o no? Fermo la miseria, le chiappe, un problema di chiappe. Quando io parlo delle chiappe, ma veramente intendo dire proprio, bisognerà sollevarsi. Il sulle chiappe mio ha questo significato metaforico, evidentemente, ma anche qui è chiaro il concetto, no? Quindi tutti desiderano una passione futura, e questo ragazzo che cosa desidera? O scrive, o dipingere, chi lo sa? E le passioni future, non un matrimonio, attenzione, non la donna ideale, non desidera la donna ideale, desidera passioni al plurale, indeterminate, future. E lì, e a questo punto che cosa fa? Cammina avanti e indietro, evidentemente, per la sua eccitazione, è sulla barca, è tra altra gente, perché quando siamo con altra gente il nostro umore spesso, se siamo giovani, cambia, no? Una delle cose che i genitori, per esempio, dicono ai figli della nostra età, eccetera, tu riservi a papà e mamma il peggio di te, fuori sei sempre gentile, in casa sei scarpato in un modo spaventoso, è come se gli altri non sapessero che razza di carogna sei veramente. C'è qualcosa di vero in quello che mi sto dicendo, e uno lì cammina avanti e indietro perché è contento, e che cosa fa? Declama. Certo, oggi è molto più difficile trovare qualcuno che declami, ma siamo nel primo romanticismo, siamo nei tempi del primo romanticismo. Quindi era normale che un ragazzo pieno di effervescenza declamasse sul ponte. Vicino c'è un tizio che diventerà uno dei personaggi protagonisti del libro. Ve lo introduco, Monsieur Arnoux, il marito di Madame Arnoux, la protagonista, l'eroina per così dire. Come è descritto? In un giochino di passeggeri e di marinai vide un signore che raccontava delle galanterie a una contadina. spalleggiandogli la croce d'oro, che portava sul petto. Era un pezzo di uomo di una quarantina d'anni, dai capelli crespi. La sua corporatura robusta impiva una giacchetta di velluto nero, due smeraldi brillavano nella camicia di batista e i suoi larghi pantaloni bianchi cadevano su strani stivali rossi in cuoio di Russia, ornati di disegni blu. Cominciamo a vedere questo tipo come presentato. Badate a una cosa. L'arte di Flaubert consiste in questo, da questo punto di vista, in ossequio ai canoni realistici. Non dà dei giudizi sulle persone. Fa parlare le persone attraverso la rappresentazione che ne fa. Ed è tanto bravo in questo che noi abbiamo immediatamente un'idea di che tipo sia costui. Questo tizio... E questo tizio fa delle galanterie a una contadina, come un uomo di 40 anni, ricordate sempre di questo fatto, l'età media, questo non lo sapete, no, nell'Ottocento, tenendo conto della mortalità infantile, che è altissima, su 6-7 bambini nasceva uno, eccetera, ma l'età media nell'Ottocento, per quanto vi possa sembrare spaventoso, tenendo conto della mortalità infantile, ripeto, era 23 anni. Era arrivata nel 1911 a 47-48 anni, età media, capito? Quindi 40 anni, solito discorso che vi faccio, è oggi sicuramente un 55, 50-55 anni, quindi l'età in cui l'uomo oggi è nel meglio. No? Anche questo no. Poi dopo comincia la descente. Una descente che chi arriva di Ferrandone. Per la donna e per l'uomo. La donna discende prima, poi si mantiene sulla breccia per più tempo e poi c'è il crollo nel burrone. Ecco, l'uomo è un po' diverso, poi anche lui. Guardate il gesto, anche lui, non so se avete capito, lei ha capito, anche lui, declina rabbiosamente verso l'abisso, però lei non ha capito, non guardava in perfetta, ha capito che fai, dunque, questo qui fa delle galanterie, cosa poco fine, no? Perché ne approfitta per il fatto che è una persona semplice, una contadina, e che cosa fa? Gli maneggia la croce. Ecco, adesso io, siccome naturalmente Ben mi guarda a fare una ragazza, potrei essere naturalmente citato. Immaginiamo che io sono sicuramente omosessuale. Se lei avesse una croce qui, io le farei un lavoro di questo genere. Ah, lei la faceva lei? Lui la faceva lei, però, ha capito il maiale? No! Faceva lei. Perché lo faceva lei? Dica lei, perché lo faceva? Lo faceva per toccargli il segno. Ebbene, il segno. E naturalmente lei, con il suo sordo compiacimento, ci stava. Ci stava, quello che vuol dire. E questo qui com'era? Questo qui che vedete introdotto subito con un gesto volgaruccio. Se io anche qui vedo sulla piazza uno che ci prova con una ragazza toccandole, no? Insomma, se ti piace, ti piace, insomma. Ma il fatto che sia una contadina, guardate queste finezze stilistiche, è molto significativo. Cioè lo faceva con una persona di cui sapeva tendenzialmente, lui borghese, di poter approfittare. Capito? Leggere significa trovare, quando il libro è grande, le pietre preziose che sono nascoste nel libro. Oh, e come era questo tizio? Era un gagliardo, era un bel uomo, non era un bel uomo, un uomo robusto che riempiva una quarantina d'anni, vi ho detto, quindi d'età, con i capelli crespi, Qui è tutto stupendo, perché... Se fate caso, ogni dettaglio, i capelli crespi fanno evocare un qualcosa, non lo so, un aristocratico, tu te lo vedi istintivamente con i capelli lisci, fini, capelli crespi, da nonché, come dire, di rozzezza al personaggio. Ma la rozzezza è naturalmente accentuata dal fatto che costui ha due smeraldi, niente poco di meno. Due smeraldi. Chi di voi ha due smeraldi alla camicia stivalista? Io voglio vedere quale ragazzo di voi viene qui all'università con due smeraldi. Ditemelo, perché nell'ipotesi due smeraldi. Ma un uomo che porta un anello a dito, per non offendere la sensibilità di nessuno di voi, un uomo, è un cafone. Ci sono naturalmente, voi potete distinguere i cafoni, ci sono già tutte le cose, potrei dilungarmi, le donne con le unghie lunghe, sapete quelle unghie raddoppiate, triplicate, quadruplicate, sono cafoni. Direi proprio senza possibilità di stare. Tu vuoi sapere che una donna è cafone? Particolarmente, sono sempre attento a guardare queste mani. E quando sono molto lunghe, allora provocatoriamente chiedo alla suddetta, dico, com'è che lei è riuscita a farsi le unghie così lunghe? Ah, c'è il manicure, mi ha fatto, se è guardata. Le unghie devono essere tutte, naturalmente, ma debitamente corte, di più per l'uomo, deve essere cortissime, eh? E per la donna di meno. E per un'ultima serie, come dico, una certa sporgenza, ma sempre minima. E comunque gli smeraldi, un uomo che porti un anello al dito, basta, è finita. Sapete che c'è un uso nel meridione, terribile, il mignolo. Il mignolo, io mi ricordo il mio barbiere, che aveva il mignolo con un unghione lungo, io un giorno gli ho detto, no, amici, non mi conosciamo, un po' più grande di me, io ho detto, ma perché porti questo unghione? E lui mi ha detto, ah, per far vedere che non sono un uomo che fa lavori manuali, effettivamente se uno fa un lavoro manuale con l'unghia lunga, ma poveretto, lui era persona senza studi, insomma. Quindi quando lei troverà un ragazzo con un'unghia lunga o un anello al dito, ecco, l'anello è così, uno può mettere tutti gli orecchini appesi agli orecchi, attaccati qui, lei vedo che ha qualcosa di spaventoso, in realtà è meno spaventoso perché è talmente codificato nel suo abbigliamento che va bene la cosa, quindi tutto sommato va bene. Al pube uno può avere un anello, in modo che uno apre, toglie e vedi che hai l'anello lì, anche solo la lingua, ma la lingua pure, perfino il tatuaggio. Ma, se ricordi bene, ma l'anello mai. Ripetetelo in coro. L'anello mai. Era solo questo. L'anello mai. L'anello mai. Aveva degli stivali rossi, degli stivali rossi con dei pezzetti blu. Possiamo dire che era quantomeno un po' eccentrico nei suoi modi. Che cosa fa costruire? Non ha alcun disturbo, dice Flaubert, della figura di Frédéric, non gliene frega niente, perché sono queste persone rozze che non hanno un senso degli altri, che hanno un rapporto, è molto interessante questo, con l'altro, puramente strumentale, gli servono l'altro gli serve per passare un po' di tempo, per non annoiarsi. Cioè capita spesso nei vagoni ferroviari, negli scompartimenti, di trovare qualcuno che parla con altre persone, no? L'avete avuto forse anche voi, a parte il fatto che non sono una bella ragazza, allora lì la spiegazione è abbastanza semplice. Ma normalmente si trovano delle persone anche che parlano non con belle ragazze. Qual è la loro finalità? È, come dire, un'affabilità nei confronti del genere umano? No, spesso è il fatto che usano l'altra persona per passare un pochino di tempo. La quantità di persone che usano le altre persone, anche nel campo sentimentale, è infinito. Una delle cose che diceva una persona che è molto, insomma, molto proclive a dire ti amo, ecco, gli ho detto questa cosa che l'ha raggelata, probabilmente un po'. Gli ho detto che lei non ama nessuno, lei ama semplicemente se stessa e non ha una fantasia sufficiente per amare qualcuno. Quindi se dice ti amo è semplicemente per sentirsi dire ti amo e per suscitare delle reazioni intorno a sé. La poveretta è stata, come dire, bruciata da questa affermazione. Ma di fatto qui vediamo che Arnoux è uno che usa gli altri, perché cosa fa? Offre i sigari. Ora, uno che offre i sigari, anzi tutti i sigari costano, quindi vuol far vedere che è in mezzo, e poi vuole soprattutto attirarsi facilmente una sorta di amicizia di questi compagni di viaggio, no? Quindi non si preoccupa di Frederick, offre dei sigari, ma annoiato di questa compagnia, perché quello non importava nulla delle persone a cui aveva offerto dei sigari, e se ne va. E Frederick però lo segue. Ma noi non dobbiamo lasciare che nessuna perla vada perduta, è chiaro? Perché Frederick lo segue? Perché Frederick cerca la vita. Capito? E quindi se c'è questo signore che sta facendo qualcosa nel senso della manifestazione di sé nella vita, lui gli va dietro. E che cosa fa il signore? Si mette a parlare con lui. E di che cosa parla? Parla prima di diverse specie di tabacchi. Cioè sarebbe come, trasferito ai giorni nostri, è che due si mettono insieme a parlare e parleranno di che cosa parlano, due giovanotti senza testa. Di che cosa parlano? Dica l'argomento più banale. Calcio. Io non sento. Calcio. Calcio, molto bene. Ottimo, no? Con accento greve. Accenneranno con accento greve alle disgrazie che la Lazio ha avuto di aver lotito, cosa di questo genere qua, no? Ecco. Oppure al tendine di Totti che si è rotto, cose di questo genere qua. Oppure un altro argomento di gente senza uomini. Macchine. Moto. Molto bene. Un'altra cosa. Donne. Cioè, potrebbe altro, ma un'altra cosa più piccola, telefonini, cellulari, l'ultimo modello di cellulare, quello che è capace di masturbarsi, cellulare che fanno tutto, quei cellulari che sanno fare tutto, tu lo prendi e sei felice. Il tuo amante ti ha sfuggito, guardi il cellulare, a te con molta attenzione, schiacci, digiti, ma chi l'ha inventata sta parola, eh? Si parla di queste cose. È difficile trovare qualcuno qui davanti al bar che parli del motivo profondo per cui è nato l'imperativo categorico cartiano. E quindi parlano prima di tabacchi, anzi lui parla di tabacco perché lui dirige la conversazione, e poi parlano di donne. Ora, voi sapete che gli argomenti delle donne sono, quando parlano fra di loro, 9,5 su 10 gli uomini. Io ho una lieve molto cara, che sono colpito dalla fenomenologia e dico, sei bella ragazza, bella e intelligente, sta sempre con gli uomini. Ora voi dite, ma con chi deve stare? Con le donne? No, ma quello che mi colpisce è questa voracità linfomanica. E un giorno credo che, siccome ha una grande idea di me, mi segue, un giorno credo che a me queste parole, ma io lo lascerò. Una volta che ha capito cos'era il maschio, non se l'è lasciato più sfuggire. A questi maschi intorno ronzanti. Anzi, ho una specie di rabbia segreta per cui glielo dirò. E gli uomini parlano di che? Parlano anche loro. Donne, motori, parlano di altre cose, ma le donne. E lui qui a noi gli dà dei consigli perché tutti gli uomini non possono cedere a questo desiderio irresistibile di dare consigli su donne a persone più giovani. È una delle disgrazie quella di avere degli amici più grandi o degli zii che siano un po' spregiudicati, ti dovranno dire come comportarsi con una donna. È fatale. Molto meno fatale che la donna dica alla persona più giovane come comportarsi con l'uomo. Ma gli uomini devono fare la lezione ai loro amici più giovani su come comportarsi con le donne. Con quella devi fare così, eccetera, eccetera. Com'è lui politicamente? E qui ecco il colpo di genio, che però richiede adesso una piccola premessa. Come racconta Flaubert? Flaubert dipinge dei personaggi con con il genio della commedia dell'arte. Nella commedia dell'arte, come sapete, il copione non c'era. C'erano i personaggi, Arlecchino, Pantalone, Brighella, no? La commedia dell'arte ha naturalmente una derivazione antica importantissima dalla commedia greca, dalla commedia latina. Anche lì c'erano dei personaggi fissi, per esempio c'era il Senex, c'era il Vecchio, oppure c'era... Lei deve assolutamente... Guardi, no, possiamo arrivare a un onorabile compromesso. Lei è un tenore? Ci provo. Non lo faccia. Dovrebbe moderare il tono della voce, in cui le suggerirei, negli eventuali interventi, di abbassare di un'ottava la sua voce. Dunque, che stavo dicendo? La commedia dell'arte. E questo è anche nella commedia dell'arte. Brighella doveva fare Brighella, Arlecchino doveva fare Arlecchino. Flaubert fa dei personaggi in cui Monsieur Argon, questo persona volgare sostanzialmente, di mezza età, che ci prova con le donne, che come vedremo è un truffatore, un imbroglione, deve fare questo. Qual è la reazione? Questo è un punto capitale, ragazzi. Qual è la reazione che il lettore di Flaubert quindi ha? E che, conoscendo ormai, intuendo di che pasta sia il personaggio che sta raccontando, questo vale per Arnaud, vale per tutti i personaggi, è come se ne attendesse le mosse, capito? E quindi vede con piacere quello che il personaggio farà, perché è come se dicesse a se stesso il lettore: no, guarda esattamente come ho pensato che avrebbe fatto, esattamente come ho pensato che avrebbe detto, e così mi fa. C'è nel conoscere, aggiungo, è un tema che offrirebbe ampie meditazioni, non possiamo fare in questa sede, un elemento di piacere doppio. Uno è l'essere riempito da qualcosa di nuovo. Quando noi sentiamo qualcosa di nuovo, anzi, poi questa è la ragione per cui studiamo, siamo emozionati. Ma non è tutto. Al tempo stesso, noi abbiamo bisogno di sentire che conosciamo già. Dico al tempo stesso, ma può anche darsi che vi siano degli scrittori da cui noi vogliamo sentire delle cose che conosciamo. Se posso fare una parentesi che vada in altri campi, per esempio nel campo sempre fondamentale dei sentimenti, vorrei dire che noi nell'amante vorremmo le due cose. Da una parte vorremmo che l'amante ci dicesse delle cose nuove, dall'altra parte è deliziosa la sensazione che l'amante dica delle cose che ci aspettiamo che dica, perché questo ci dà un senso di casa, un senso di intimità. L'amante che dicesse sempre cose sconvolgentemente nuove ci farebbe fare una fatica terribile, e la fatica avrebbe premio, per così dire, sul piacere. Ma l'amante che dicesse cose sempre assolutamente prevedibili ci annoierebbe. Ecco, non differentemente, nella lettura accade questo, che noi cerchiamo segretamente cose che conosciamo, e quando le arrivano le vediamo con una sorta di entusiasmo, di entusiasmo. Questo per esempio nell'ascoltare Perigines, la musica viene molto bene, per esempio, perché racconta Proust, per esempio, che sentendo Wagner, no? Wagner ha questi famosi leitmotiv, ha questi famosi motivi che non sono i ritornelli o altre cavolate del genere, sono motivi profondi, ed è una cosa meravigliosa, per esempio, sentire, per chi conosce bene Wagner, per esempio, sentire che il motivo sta arrivando, e non arriverà subito, ma magari arriverà fra 5 minuti, 10 minuti, no? Allora, sentendo una cosa che conosco par cœur, l'altro giorno, nei miei lunghi viaggi in macchina da Tor Vergata, casa mia, che è un posto di Roma, dall'altra parte di Roma, e sentivo il Parsifal e sentivo che arrivava il motivo. E stavo dicendo a me stesso, ma quando arriva? E a un certo momento c'è stato un arco e un fiato che hanno cominciato a far venire fuori quel motivo, alla fine il motivo ha trionfato. E questo mi sembrava meraviglioso, insomma, questo fatto del tenere lo spettatore legato all'attesa del motivo che esploda nella sua bellezza. Ebbene, tornando qui, quindi noi adesso dobbiamo renderci conto che tutto quello che vediamo è obbedisce a questa previsione. Di che partito politico è lui? 1840. Anzitutto, secondo voi, questo signore che si presenta, com'è? Conformista o anticonformista? Lo dice lei? Conformista. Molto bene, conformista. Adesso vi faccio una domanda molto delicata. 1840 vuol dire che c'è Luigi Filippo, una monarchia, ma borghese, attenzione, cioè monarchia di nome, ma di fatto il potere ce l'hanno i borghesi, no? Quello che importa sempre in una situazione politica è vedere, al di là dei nomi, la consistenza della situazione politica, no? Se uno dicesse, cioè, Berlusconi è un conservatore, Berlusconi è tutto perché è un conservatore. È un populista, un rivoluzionario di destra, ma è tutto è un conservatore. E allora, secondo Arnoux, diciamo così, destra o sinistra, usiamo questa affermazione. Ecco, destra, è dalla parte dei veri poteri. Siccome vi ho appena detto che i veri potenti sono i borghesi, no? Quindi lui è un repubblicano. Quindi vedete che apparentemente è contro, perché è una monarchia, quindi apparentemente è uno contro, ma in realtà va secondo il flusso dei tempi. Vi faccio un esempio. Nel 75, quando voi non eravate nati, lei cosa faceva? Non era nato. Nel 75, alle elezioni amministrative del 75, la stampa si era mossa verso sinistra e il PC, il Partito Comunista, stava assumendo un grande potere. Ed eravamo tutti copiati da questo per vedere se ci sarebbe stato il sorpasso della Democrazia Cristiana. Era pure un momento di infarto. Chi votarono comunista nel 75? Gli industriali. Persone che non avresti mai pensato che votassero in quel modo, ma che andavano secondo l'onda. E siccome l'onda, siamo dopo il 68, l'onda era quella per cui si andava in Europa e nel mondo a sinistra, ecco che questi, fiutando l'onda, avevano votato il Partito Comunista. Va bene? Quindi il fatto che Arnoux sia repubblicano dimostra proprio il suo conformismo assoluto, è dalla parte dei borghesi e racconta quello che tutti gli uomini raccontano quando vogliono farsi belli davanti ai ragazzotti. Quindi racconta che aveva viaggiato, conosceva i teatri dall'interno, ambiente i teatri, i ristoranti, i giornali, gli artisti celebri, li chiamava per nome. Quando voi vedete un qualunque mediocre che chiama per nome una persona importante, sappiate che questo è come mettere l'anello al dito. È come mettere l'anello al dito. Io mi ricordo quando ho fatto l'esame di latino, era insieme mio compagno di banco, era Camillo Benso, conte di Cavour, più o meno, e c'era una ragazzotta che faceva la esercitatrice, una cacchetta indegna, ecco, e però io ero dalla parte degli studenti, lei era dalla parte, e c'era un professore importante che si chiamava Canali e di nome faceva Luca, e allora chiedevano dov'è il professor Canali, chiedevano, mi ricordo ancora al tavolo di esame, e questa disse, ah, Luca ha detto che farà tardi, per far vedere che questo professore di donna, lei era in una sorta, come io dico, di contubernalità, capite? Ecco, nonostante fosse nella tensione degli esami, avessi molti anni, pochi anni, voglio dire, però colsi il carattere squallido della persona. Quindi il fatto che lui chiami per nome persone importanti, ah sì, ho visto, che so, ho visto Silvio, ecco, a parte che ormai è diventato un aspetto, no, ma insomma, ho parlato, io ricordo, ne ho viste nella vita da questo punto di vista, dunque Henry Kissinger era un grande statista, segretario di Stato, e nell'ambiente che frequentavo, ah sì, ho cucinato con Henry, diceva, a New York la settimana scorsa, ma vaffanculo. E la mia teoria del questo vaffa famoso, che poi è diventato un movimento politico, è che è insostituibile. Cioè non si può dire nient'altro che il vaffa, no? nessun altro commento potrebbe essere adeguato. Io ho anche scritto un piccolo trattatello sulla irreversibilità del vaffa, nel senso che devo dire la possibilità, tu dici uno cretino, l'altro ti risponde, cretino sarei tu. E cosa stupido sarei tu. Ma se io dico vaffa, la persona se lo becca tutto. può anche dirlo, ma intanto se l'è beccato, può anche restituirlo, no? E allora gli sdomismi di questo genere fa fare, perché gli sdomismi sono dei ricchi, ma sono anche dei poveri, anche degli armoni, anche degli armoni. E poi si mette a contare quanti colpi di pistone, cioè questo denota quanti colpi di pistone fa il motore certi in qualche minuto, così eccetera, cioè cose completamente sceme, e poi sentite, poi si mise ad ammirare il paesaggio. Attenzione, che senso ha la sua ammirazione del paesaggio dopo aver avuto un pensiero futile come quello dei colpi di stantuffo del motore? Nessun senso. Perché nelle persone così vuote di testa, l'ammirazione, cioè qualcosa che tu potresti ascrivere a un'anima profonda, è anch'essa fatua. Questa è un'esperienza molto interessante. Cioè, per esempio, quando vedete in una libreria, se ci entrate, state ben attenti, vi dico sempre di guardare, nessuno dei libri che sono ricordatevi, questo è un testamento fondamentale. Che testamento? Testamento sarà per lei. Allora c'era una signora nella libreria, vicino alla libreria, serio cesso, vicino a casa mia, che diceva, sì, ho letto 300 pagine di Platone, e qui anche i... funziona, no? Perché tu avvertivi la futilità con letto Platone. Vorrei farti una domanda su Platone, se sai rispondere. Ma ci sono persone che vivono in questa affettazione e vacuità, e lo studio all'università che voi state facendo deve servirvi non solo ad avere il famoso pezzo di carta per il vostro lavoro eventuale, cioè, ma soprattutto a capire il mondo, a capire queste persone fatue. A un certo momento qualcuno viene lì, un impiegato, qualcuno, e dice se il Signore volesse scendere, perché la signorina piange. E quindi noi abbiamo conosciuto finora lui, Arnoux, e adesso ci viene introdotta la figlia di Arnoux. Attraverso, non sappiamo ancora nulla della figlia, ma ci viene introdotta la figlia di Arnoux. Fermiamoci.